è un tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno. E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, sono le 15:07 minuti primi, 8 quasi. Oggi è mercoledì 6 giugno, buona giornata a tutti e tutte, in particolare buona libertà per coloro che ne sono privati o private. E allora iniziamo la trasmissione La Conta, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. E quest'oggi parleremo, dovremo per forza affrontare un tema in cui tutti i giornali sono buttati a pesce, forse perché non sapevano cos'altro scrivere e ovviamente hanno scritto anche parecchie cose così, come dire, superficiali rispetto alla proposta, ma più che altro è una buttata, cioè una cosa così buttata lì, appunto, del ministro della giustizia Severino, che ha detto: per utilizzeremo i detenuti anche per aiutare a sistemare le aree terremotate dell'Emilia. La cosa rimanda a un discorso appunto sul carcere, sul lavoro in carcere, che vedremo tra un attimo. Mentre si dicono queste baggianate, in realtà in carcere si continua a morire. È il caso di un detenuto di 41 anni nel carcere di Sulmona, uno dei peggiori carceri, il carcere di Sulmona è quello che ha il più alto numero di morti per vari motivi, e quindi, come dire, insomma, se affrontassero i problemi veri invece di buttarsi a dire cose così di poco conto, insomma, appunto, sarebbe opportuno vederli più seriamente lavorare, o comunque affrontare i termini più seriamente laddove si muore. E il problema, poi dopo questa panoramica, diciamo, dei temi discussi la settimana sul tema carcere, sull'universo carcere, affronteremo un tema molto importante, che tra l'altro è un tema che vedrà questo fine settimana, cioè sabato, un convegno, un incontro, un dibattito qui vicino Rebibbia, al parco di Aguzzano, per quel problema di cui abbiamo parlato più volte, del tentativo di costruire un carcere a custodia attenuato per le madri con i bambini che stanno adesso nell'asilo nido di Rebibbia, e che appunto però è comunque un carcere, e andrebbero a cementificare un pezzo di parco che invece è finora adibito e dovrebbe essere adibito a tutt'altri scopi. Affronteremo pure di nuovo quindi il tema dei bambini nel carcere, creature che nascono in carcere soltanto perché sono state partorite da una persona ritenuta appunto delinquente o comunque carcerata, e vabbè, qui è un problema che rimanda abbastanza a, diciamo, è un po' una punta dell'iceberg che ci permette di mettere in discussione il carcere. Questo tra un attimo, affronteremo tutti questi temi e quindi ci sentiamo tra un minuto. E allora iniziamo, 15:11 minuti primi. Allora, come avete visto, se avete sfogliato i giornali di questi giorni, ma anche credo in televisione, non so se ne ha parlato anche la televisione, immagino di sì, e anche siccome c'è stata questa vicenda abbastanza luttuosa e drammatica del terremoto in Emilia, vaste zone, diciamo, anche in Romagna pare si sia spinto, e allora, tra le altre cose, invece di parlare ai problemi che non hanno saputo prevenire i danni provocati dal terremoto, c'è stata questa uscita così un po' allegra del ministro Paola Severino, ministro della giustizia, che ha detto: utilizzeremo i detenuti per dare una mano, per aiutare, per lavorare alla la sistemazione delle zone terremotate. Ora, e qui sono partiti i giornalisti senza sapere di che cosa si parlava, ognuno ha detto le sue, qualcuno ha detto ma le persone avranno paura a vedersi intorno i detenuti, altri gli hanno risposto, ma usciranno quelli che normalmente vanno insieme in libertà, insomma tanti dati così. Ovviamente quando si affronta un tema abbastanza particolare come quello del carcere bisognerebbe saperne di cosa si parla. In realtà, allora, intanto vediamo i numeri, perché sono quelli che hanno un po' così, danno un po' la direttiva di che cosa si parla. Allora, sapete che in carcere ci sono delle leggi in Italia, purtroppo poco applicate queste, e altre eccessivamente applicate. Queste sono quelle, diciamo, a favore dei detenuti e delle detenute, che consentono, per esempio, dopo aver scontato metà della pena, di poter uscire in lavoro all'esterno, quindi in semilibertà. Vi è anche una possibilità di uscire in lavoro all'esterno anche prima di aver scontato metà della pena, uscendo e rientrando subito dopo il lavoro, che si chiama articolo 21, questo meccanismo. Insomma, i meccanismi di uscire dal carcere per lavorare sono tanti, perché si ritiene questo paese, le leggi di questo paese ritengono, come un po' le leggi di tutti i paesi, diciamo, del mondo occidentale, ritengono che il lavoro è uno strumento che riabilita, rieduca, dicono loro, colui che invece colui o colei che hanno commesso un reato. L'idea un po' così positivista, vecchia chiaramente, deriva dal fatto che se una persona commette un reato è perché non gli va di lavorare, sostanzialmente così dice tutti. Credo che è difficile trovare una persona che ama il lavoro, comunque a parte questo e allora quindi il lavoro è favorito, però poi ci stanno le difficoltà. Oggi non trova lavoro nemmeno una persona che è plurilaureata e non ha la fedina penale cosiddetta, ce l'ha in contatto minata, pulita, e quindi è difficile per un detenuto ex detenuto trovare lavoro. Tuttavia, allora qual è il problema? Intanto i dati sono questi, che tra i 68.000 e 69.000 detenuti attualmente presenti nei carceri italiani, soltanto uno su 5 lavora e soltanto uno su 30, quindi lo fa per... diciamo ditte esterne, non per all'interno del carcere. La gran parte dei lavori sono i lavori che si svolgono all'interno del carcere, che so, lo scopino, lo spesino, quelli che fanno da mangiare, quelli che puliscono i corridoi e così via. Sono lavori cosiddetti domestici, cioè che si svolgono all'interno del carcere. A volte anche alcuni carceri hanno intorno un giardino, quindi c'è anche questo lavoro, eccetera, eccetera. Questi lavori interni al carcere sono retribuiti in maniera molto bassa. L'altra volta, qualche volta fa, abbiamo portato delle buste paga che ci hanno mandato dei detenuti sui 40-50 euro al mese. Pensate voi che si chiama Mercede, il salario del detenuto che lavora per il carcere, ed è appunto, invece soltanto uno su 30 lavorano per ditte esterne. Su questo c'era stata una legge chiamata la legge Smuraglia qualche tempo fa, che aiutava, diciamo, dava delle facilitazioni alle ditte che assumevano detenuti o ex detenuti, proprio per mettere in moto questo meccanismo. La legge Smuraglia però chiaramente andava finanziata ogni anno, perché è una legge che dà delle facilitazioni, cioè riduzione di imposte, di tasse, a quelle ditte che assumono alcuni detenuti o ex detenuti, e quindi va finanziata ogni anno, cioè lo Stato deve mettere dei soldi su questa legge Smuraglia, e con questi soldi si danno le facilitazioni alle ditte che assumono i detenuti. In quest'ultimo anno, per la crisi, come dicono loro, il debito, questi impicci qua, in realtà non hanno finanziato la legge Smuraglia, quindi la legge Smuraglia c'è ma non c'ha soldi, e quindi come se non ci fosse non opera. E allora le persone che lavorano sono molto poche. Chi può lavorare all'esterno? Abbiamo detto, coloro che hanno una condanna definitiva, cioè che sono ormai definitivi, non possono lavorare all'esterno, coloro che sono in attesa di giudizio. In realtà questi non dovrebbero nemmeno stare in carcere, le persone in attesa di giudizio non dovrebbero stare in carcere, perché sono persone innocenti fino appunto a sentenza definitiva, dovrebbero aspettare la sentenza o al proprio domicilio, con delle limitazioni, non poter uscire dal comune, non poter uscire dal paese, cioè essere rintracciabili per il momento in cui scatta la sentenza. Questo secondo le leggi, non quello che vorremmo noi, che è tutt'altro, potete immaginarlo perché ne parliamo spesso. Allora, quindi secondo le leggi attuali, il codice di procedura penale, diciamo l'ultima versione del 2000, quindi recente, dice che le persone in attesa di giudizio devono stare non in carcere, tranne casi rari, cioè qualche decina. In realtà ce ne stanno la metà di questi 68.000, più o meno metà sono invece in attesa di giudizio. Perché? Perché appunto è il problema, questa cosa mette anche questa, sembra un'anomalia, non è un'anomalia, è che la legge è stata fatta sotto pressione dei giuristi, dei convegni, dei dibattiti. In realtà la realtà del carcere è invece tutt'altra, e verrà fuori adesso anche quando parleremo dei bambini in carcere, ma anche da questo punto di vista, perché il carcere non è vero che serve a rieducare tutte queste cose qui, ma serve a terrorizzare, a spaventare, a punire, a incutere paura nelle persone, e quindi anche persone in attesa di giudizio che la legge vorrebbe fuori, a casa, a domicilio, eccetera, vengono sbattute in carcere. Allora dicevamo, coloro però che sono definitivi, quindi metà dei carcerati, possono iniziare un percorso di lavoro. Al momento che uno è definitivo inizia un percorso di lavoro, perché la legge dice che attraverso il lavoro ci si rieduca e quindi va facilitato il lavoro. E quindi, voglio dire, quello che ha detto la Severino è una cosa che dovrebbe essere addirittura normale, ma non soltanto quando c'è un terremoto. Normalmente i detenuti dovrebbero essere avviati a lavori esterni, lavori di pubblica utilità, in alcuni paesi, in alcuni periodi meno forcaioli di questi, non in Italia, non si è mai fatto un esperimento del genere. In altri paesi sono fatti esperimenti, per esempio facevano gli stradini, la sistemazione delle strade, venivano portati fuori in gruppi a lavorare, poi finita la giornata di lavoro rientravano in carcere. E questo dicono le leggi loro, e le leggi hanno fatto loro. Poi non si fa questa cosa perché il carcere sempre più assume, non dal punto di vista delle leggi che ci stanno, dal punto di vista del suo funzionamento, come appunto spauracchio, terrore che sta lì per spaventare la gente, e quindi questa cosa non funziona. In realtà però i detenuti potrebbero essere avviati al lavoro esterno, ma non appunto soltanto in terremoto. Qual è il meccanismo per cui un detenuto o una detenuta può essere avviata al lavoro esterno? È semplicissimo: il detenuto e la detenuta che stanno in carcere vengono continuamente osservati. Il carcere è quello, è uno strumento di osservazione della tua quotidianità, quindi dei tuoi comportamenti, eccetera. Un'equipe, si chiama così, un gruppo fatto dal direttore, lo psicologo, l'educatore, il capo delle guardie, si chiamano equipe, che controllano il comportamento di ciascun detenuto e in base al suo comportamento emettono una scheda. Questa scheda dice se questa persona è in via di reinserimento oppure no. Se è in via di reinserimento, questa persona può essere appunto avviata al lavoro esterno, ma il lavoro esterno dovrebbe essere continuamente, lavori di pubblica utilità, appunto giardini, strade, pulizie, cose varie potrebbero essere fatti all'ordine del giorno. Stavolta, che appunto in occasione del terremoto hanno detto questa cosa, il problema ha scatenato l'ira di Dio, però poi appunto probabilmente non se ne farà niente, una di quelle butade lasciate lì, lanciate lì, non sono stati oliati i meccanismi, perché non è che si possono prendere i detenuti in maniera informale, generica, e fatti uscire. E la legge dice che per ciascun detenuto, appunto in base a quell'osservazione fatta dall'equipe, ciascun detenuto viene osservato dall'equipe, che stabilisce una valutazione. In base a quella valutazione viene fatto un progetto, una proposta di lavoro, e quel detenuto con quel progetto di lavoro passa attraverso il vaglio del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza, che è quello che ammette al lavoro esterno, sia di semilibertà, sia di articolo 21 e così via. Quindi il discorso è tutto è individuale, ciascun detenuto individualmente può accedere al lavoro esterno attraverso questi meccanismi. Questa è la cosa, quindi tanta di questa carta scritta in realtà è inutile, un po' di baggianate, però appunto i dati, poi come abbiamo detto, i dati, i numeri hanno la testa dura, e quindi è difficile che nessuno porta, perché molti che hanno scritto questi articoli manco hanno visto i numeri. In realtà abbiamo detto lavorano soltanto 1 su 30 tra i detenuti che potrebbero lavorare, 1 su 30 invece lavora rispetto a situazioni esterne al carcere, ditte, cooperative, e che su questo terreno dovrebbero invece essere chiamati a incentivarsi le amministrazioni locali, comuni, province, regioni, dovrebbero mettere a punto, questo dice la legge, una serie di meccanismi di lavori socialmente utili, non aspettando il terremoto, anche quando non c'è il terremoto, in grado di appunto di accogliere i detenuti in avvio di lavoro all'esterno, perché l'uscita dal carcere in Italia è permessa attraverso le misure alternative, queste lavoro all'esterno è una delle misure alternative più diffusa, è quella che dovrebbe essere massimamente diffusa, questa secondo i meccanismi stessi. Invece i meccanismi si sono inceppati, perché? Per quella battage pubblicitaria che sono stati fatti da parecchi anni, che noi chiamiamo forcaiola, cioè quel tantan forcaiolo che investe tutti i giornali in Italia, per esempio, forse tranne il Manifesto, tutti i giornali sono forcaioli, che non fanno altro che dire mandiamo in carcere, perché è l'unico meccanismo per in qualche modo raccogliere e sviare la paura indotta tra le persone. I giornali e la televisione soprattutto induce paura, paura del diverso, paura del migrante, paura di quello di un colore diverso, paura della notte, della sera, del buio, eccetera eccetera. Questa paura poi prende corpo nelle persone ben indirizzata, persone che forse stanno anche male, ma non per quel motivo, stanno male perché hanno perso il lavoro, rischiano di perderlo, è diminuito il salario, non sanno più come pagare i debiti che hanno accumulato, per quello stanno male, hanno delle difficoltà di vita. E però la risposta che dà il governo, lo Stato, questa società è avete paura perché ci stanno, non so, i migranti, perché ci stanno i Rom, perché ci stanno, che ne so, i folli e così via. Ecco, i delinquenti, perché ci stanno i delinquenti. E allora la gente, così, non sapendo, non essendo indirizzata in altro modo, dice, chiede carcere, cioè appresso ai lucetti che di volta in volta, di qualunque casacca abbiano, prendono questa, come dire, no? Dirigono questa ondata di malessere e dicono mandiamo tutti in carcere, e quindi le persone vanno appresso senza un discernimento, e questo si crea questa ondata di carcerizzazione che è abbastanza spaventosa e che, come abbiamo detto più volte, investe un po' tutto il mondo. Siamo in una fase di grosso regresso sociale, lo si vede in tanti aspetti. Il carcere è un elemento importante, una lucetta rossa che si è accesa in questi ultimi anni, lampeggia come se fosse un qualcosa che sta per esplodere, infatti sta per esplodere, perché il carcere è una degli osservatori più attenti che dicono se una società sta regredendo verso la barbarie oppure sta andando verso un meccanismo, diciamo, di progresso sociale. Oggi sta regredendo pesantemente verso una barbarie, lo vediamo, la gente è nevrotica, si ammazzano per un posto di parcheggio, cioè c'è una nevrosi spaventosa dovuta a tanti aspetti, che appunto, diciamo, il lavoro, la crisi, l'assenza totale di ogni rapporto minimo, che non è che c'è mai stato, però perlomeno in maniera finta prima c'era quella che si chiamava democrazia, cioè una sorta di dialogo che sembrava ci fosse, poi non c'era, però la gente era convinta che ci fosse tra le popolazioni e le classi dirigenti. Oggi anche questo è azzerato, oggi un tubo di qualunque cosa, sì, no, c'è questo meccanismo pressoché dittatoriale, totalmente dittatoriale, che oggi basta che uno dice, ecco, vediamo la faccenda delle discariche, no? La gente dice no, qui no, e loro mandano l'esercito, non è che discutono, eccetera. Questione di questi giorni, oppure la NOTAV l'abbiamo vista, sono arrivati con l'esercito, non hanno raccolto le argomentazioni della popolazione, no, che sta lì da sempre e che ha analizzato dettagliatamente il problema, dicendo le assurdità di questa nuova Tangentopoli che si abbatte sull'Italia, perché la NOTAV sarà nuova Tangentopoli mafiosa che si sta preparando con buona pace di tutti, destra e sinistra, e non è che ascoltano, prendono e mandano l'esercito per arrestare e incarcerare, eccetera. Vabbè, questa è la situazione, per cui anche questa storia qui dei detenuti diciamo, ad aiutare i terremotati è un po' una boutade che francamente andava trattata con maggior attenzione. E allora 18, scusate, 15 e 28, passiamo al secondo aspetto della, della trasmissione. Come avevamo detto, diciamo a proposito di un convegno che c'è a fine di questa settimana, sabato 9, affronteremo il problema, che questo convegno rimanda a molti problemi. Il problema che l'ha messo in moto è il tentativo da parte del Ministero della Giustizia, su indicazione della Regione, di costruire un carcere a custodia attenuata, ma sempre carcere, nel parco di Aguzzano. Il parco di Aguzzano è quel parco che vedete se andate verso Rebibbia, sulla Tiburtina, poi girate a sinistra per via Casal de' Pazzi, è quel parco che sta tra il carcere di Rebibbia, il grosso complesso carcerario di Rebibbia, e diciamo le parti a sinistra, non so se est, ovest, vabbè, insomma, quelle parti sopra Rebibbia. È un parco molto bello in cui la popolazione lo utilizza già per molte cose. Ecco, il Ministero della Grazia e Giustizia aveva chiesto alla Regione di individuare un luogo dove costruire quello che in sigla viene chiamato ICAM. ICAM sta per Istituto a Custodia Attenuata per Madri. Che cosa dovrebbe essere questo? Voi sapete, ne abbiamo parlato tante volte, tantissime volte, chi segue questa trasmissione lo sa a memoria, esiste il drammatico, triste, squallido problema in Italia che le detenute che hanno un bambino o una bambina da 0 a 6 anni, poiché la legge dice che il bambino o la bambina deve stare con la madre sta in carcere, anche il bambino e la bambina. Quindi stanno bambini che nascono in carcere e vivono i primi 6 anni di vita in carcere, e poi quando compiono il 6° anno vengono separati dalla madre e mandati negli istituti, non so quali, sicuramente niente di bello, vabbè, se non hanno parenti, nonni, eccetera. Bene, è un problema annoso, tutti hanno detto è una vergogna, ogni ministro della giustizia che si insedia, lo leggiamo perché ormai fa parlare una casistica, è come dire, la barzelletta di questo paese, dice, viene a sapere di questa cosa ogni volta che un ministro della giustizia, anche Paola Severino ha fatto così, si dice in Italia ci stanno circa 70 bambini e bambine da 0 a 6 anni in carcere con le proprie madri, è una vergogna, perché, insomma, è chiaro che è difficile giustificare che uno Stato potente, una potenza economica e militare, uno Stato moderno, democratico, repubblicano, tutte queste cose qua, tenga dei bambini a 0-6 anni in carcere, che hanno fatto, cioè, non è giustificabile da nessun punto di vista, e credo che nemmeno i regimi autoritari, dittatoriali si fanno una schifezza simile, non tutti sicuramente, non le fanno queste porcherie, un paese democratico come quello italiano le fa queste porcherie, ne fa queste ed altre, no? Bene, allora dopo tanto tempo, battaglia contro battaglia, circa 10 anni fa venne fatta una legge, la legge Finocchiaro, in cui si diceva che le madri che hanno un bambino, allora era 0 a 3 anni, poi è stato portato fino a 6 anni, potevano andare in misura alternativa, quindi al proprio domicilio, agli arresti domiciliari, con dei permessi per portarli a scuola eccetera, all'asilo nido, per stare fuori dal carcere i primi 3 anni di vita, poi diventati 6 col bambino o la bambina, e alcune persone detenute hanno utilizzato questa legge, però questa legge diceva appunto il domicilio, quindi quelle donne che non hanno domicilio, metti le migranti, le Rom, in cui il campo nomadi non viene considerato un domicilio adatto per il controllo, e a queste persone non veniva dato. Poi è intervenuta un'altra legge, la peggiore legge che c'è a questo paese, che è la legge Cirielli, che è quella famosa legge che fece il governo Berlusconi, in cui si accorciavano i tempi di per i reati, diciamo, i tempi di prescrizione per i reati dei ricchi, diciamo, dei potenti, falso in bilancio, corruzione eccetera, e si introduceva invece la punizione per i cosiddetti recidivi, cioè quelle persone che compiono un reato anche piccolissimo più volte nel corso di 5 anni. Queste persone vengono bollate come recidive. Per queste persone recidive tutti i cosiddetti benefici, le misure alternative vengono bloccate. Anche questo, che è ritenuto un beneficio delle donne madri, è bloccato nel caso che siano recidive. La maggior parte delle persone che stanno in carcere oggi sono persone che stanno dentro per piccoli reati, in genere reati contro il patrimonio. Il reato contro il patrimonio, per sua natura, non si può fare una volta sola, a meno che uno non svaligia una banca d'Italia e ci sta bene tutta la vita. In realtà i reati contro il patrimonio sono reati piccoli, e quindi spesso chi fa questo tipo di attività li fa più di una volta. Quindi i recidivi colpisce la fascia bassa delle persone che stanno in carcere. Bene, queste sono circa 60-70 donne che stanno in carcere con i propri bambini, nelle carceri d'Italia hanno questo problema, o non hanno un domicilio dove andare o hanno appunto la recidiva. Allora, invece di fare una micro legge che bastavano due parole, due frasi, ma manco una frase di due righe in cui si diceva la legge Cirielli non viene applicata alle a donne madri, oppure qualunque domicilio può essere anche un albergo, qualunque posto può essere ritenuto domicilio valido, perché invece è stato inventato questo fatto dell'ICAM. L'ICAM appunto è un carcere vero e proprio, perché è a custodia attenuata, però sempre a custodia. Quando c'è la parola custodia vuol dire che il luogo custodito è un luogo circondato da guardie con le sbarre, in cui non si può uscire né entrare tranquillamente, in cui le persone che stanno lì sono detenute, recluse, quindi non possono uscire quando vogliono. E questo ICAM è stato costruito uno a Milano, dove le donne che stavano prima nell'asilo nido di San Vittore o di Opera sono state mandate in questo ICAM, che è un carcere come un altro, anzi, in cui non, se non puoi uscire, il problema del carcere non è tanto che sia, cioè abbia, diciamo, i vasi di fiori alle finestre, ma il problema è che non puoi uscire, ti leva in primo luogo, toglie la libertà, quindi laddove c'è violazione di privazione di libertà, quello è un carcere, poi lo possono chiamare come vogliono. È stato molto criticato quel primo esempio di ICAM a Milano, perché in particolare non solo porta le donne da un carcere all'altro, perché anche l'asilo nido interno alle carceri poi viene fatto con colori, caruccio, non è quello il fatto è che questi bambini stanno in un carcere e non possono liberamente andare a giocare con gli altri nel parco dove vogliono. E allora, in più gli viene tolta la socialità che hanno nel carcere normale, quanto brutto sia, le detenute madri hanno anche la possibilità di parlare, discutere, chiacchierare, fare l'aria con le altre detenute, quindi hanno un livello di socialità che permette nella ristrettezza del carcere di sopravvivere. Nell'ICAM ovviamente solo tra detenute madri ci vedono, altre stanno distanti dalle detenute, quindi è un fatto comunque obbrobrioso da tutti i punti di vista. Non è questa la risposta, non è costruire altre carceri la risposta a far uscire i bambini, è proprio farli uscire, punto e basta, almeno su questo non ci dovrebbe essere discussione. Questa è la solita squallida, miserabile, la più abietta risposta che mente perversa poteva trovare. Bene, qui a Roma l'esperimento di Milano è stato criticato da tutti, quindi è fallito, nonostante questo, pervicacemente, vogliono farne anche una a Roma, dove addirittura andando a cementificare un parco che è il Parco Ragusano. Bene, l'abbiamo già sentito da questi microfoni, gli abitanti della zona all'intorno al Parco Ragusano si sono organizzati, hanno fatto diversi comitati, assemblee e si oppongono a questa costruzione, hanno fatto diverse manifestazioni, fanno in continuazione le cose. Bene, noi adesso qui abbiamo una compagna, Francesca, che salutiamo. Ciao Francesca, buongiorno. Ciao. Allora, che è di questa partecipata a questa assemblea. E però loro hanno fatto un percorso particolarmente interessante. Non solo hanno visto questo carcere per detenute madri e quindi si oppongono a che questo venga costruito in un parco che dovrebbe avere tutte altre finalità, eccetera, ma poiché si trattava, stanno vicino a un carcere, perché Parco Aguzzano sta adiacente al carcere di Re Bibbia, e dovendosi discutere se di questo carcere, che ICAM è un carcere nel Parco di Aguzzano, hanno voluto conoscere a fondo il problema del carcere, e quindi hanno fatto un percorso di conoscenza parlando con i volontari che entrano nel carcere, parlando con alcuni detenuti che erano usciti e che uscivano, insomma hanno cercato di mettere, come dire, a fuoco che cos'è il problema del carcere. Considerate che per chi non ha a che fare col carcere, per le persone normali che vivono nelle città, è abbastanza sconosciuto il carcere, quindi il modo di conoscere il carcere vi ha portato invece a individuarne alcuni aspetti centrali. Allora, raccontaci com'è stato questo percorso che avete fatto per mettere a fuoco il carcere. No, vabbè, diciamo le riflessioni che abbiamo svolto a partire da... Non funziona bene. Aspetta, no. Non lo devi toccare forse. Ok, funziona. Ecco. Adesso sì, perché quella che è delicato. Va bene, vai. Ok, visto che è in cantiere da tempo questo progetto, no, di trasferire alcune madri che sono attualmente detenute nel carcere di Re Bibbia e quindi spostarle dentro questo casale, uno dei tanti che ospita comunque il Parco di Aguzzano, quindi cambiando anche insomma la destinazione d'uso del casale, che era comunque destinazione d'uso per come spazio di cultura aperto insomma alla gente del posto. Comunque già questo parco rimane l'unico punto di raccordo e anche di aggregazione, diciamo, per una socialità viva, no? Quella che comunque si tende sempre di più a distruggere, a disgregare, che non si favorisce, diciamo. Questa notizia, insomma, ci ha messo di fronte a delle riflessioni che non facciamo tutti i giorni, perché non viviamo dentro il carcere, o almeno così ci sembra, non viviamo da incarcerati, ma poi, insomma, il tentativo che abbiamo fatto anche durante questo percorso è di rintracciare comunque tutti questi luoghi che attraversiamo anche quotidianamente, in cui si riproducono questi stessi meccanismi, che poi sono meccanismi propri del carcere, cioè di esclusione. Quello che ci siamo detti incontrandoci tra di noi, e diciamo che anche siamo un gruppo abbastanza eterogeneo, che un gruppo che comunque riuscirà a prendere poi una posizione soltanto dopo questa giornata e soltanto insomma continuando poi questo percorso di conoscenza, che non vuole essere solo un percorso di conoscenza ma comunque la base, perché siamo abituati ad avere anche un'immagine che ci è restituita del carcere, che a me piace definire come un'immagine eterna, come qualcosa che c'è da sempre, come una costante, no, nella nostra società. E allora sovvertire anche questo, cioè vuol dire anche parlare con le persone che ci sono state, non per creare la dicotomia tra chi è dentro e chi è fuori, ma anzitutto per romperla, perché soltanto attraverso la costruzione di un percorso, cioè raccontando le storie, soltanto attraverso una narrazione che restituisca non un'immagine eterna. Un'immagine che riesce anche a produrre, diciamo, uno shock, e quindi a renderci anche coscienti di quello che è di fatto l'istituzione carcere. E quindi rispetto a questa cosa, diciamo, alle domande fondamentali che ci siamo anche posti, come funziona il carcere, qual è la sua funzione nella società, dobbiamo riuscirle di fatto a smontare attraverso queste esperienze dirette che ci vengono narrate. Perché? Perché di fatto ci abbiamo già capito che il carcere come istituzione non serve a rieducare. Assolutamente, si entra nel carcere per aver rubato un pezzo di pane e se ne esce, insomma, professionisti. Sì, e quindi c'è, cioè, montare il funzionamento per dire che appunto, cioè, non è neanche solo nel parco che vogliamo questo, che non vogliamo questo mini carcere, ma non lo vogliamo e basta, perché insomma, cioè, tolleriamo comunque ogni giorno il fatto che dei bambini nascano là dentro. E su questa cosa dei bambini viene messo in luce, insomma, proprio l'aspetto, no, della funzione, quello che dicevamo prima. Non serve a rieducare, perché? Perché posso essere colpevole del reato che ho commesso, ma in Italia per esempio è reato essere clandestini, come vediamo, ma non è reato torturare, no? Oppure, quindi, cioè, noi, cioè, siamo lì che tolleriamo che avvenga questo. Insomma, cioè, metteva in luce questo aspetto, insomma, sulla colpa, che secondo me è molto interessante, perché lì, cioè, occorrerebbe fare un discorso, insomma, un po' più ampio e vedere, insomma, cosa si punisce, quale colpa. Cioè, una colpa che è semplicemente biologica, che è di eredità, cioè è la colpa della madre che ha messo al mondo un figlio. E quindi il bambino è comunque costretto, cioè, a passare i primi anni della sua vita dentro un carcere. E quindi niente, sabato, per chiunque voglia contribuire, voglia venire, insomma, portare il suo contributo, cioè una giornata che comunque noi abbiamo costruito pensandola anche non in maniera accademica, cioè non vogliamo ricreare uno spazio in cui si apra soltanto una discussione, insomma, sterile, soltanto tra chi ne sa, ma dove ognuno è benvenuto è invitata a portare insomma la propria esperienza, cioè questo che ci siamo detti, che vogliamo soprattutto incontrare chi appunto nel carcere ha vissuto e ha lavorato e chi su questi insomma temi ha compiuto degli studi, ha portato avanti battaglie per attraversare anche insomma in maniera orizzontale diciamo il carattere e il funzionamento di tutta questa istituzione. Quindi affronteremo temi del carcere metropolitano, della sua normalità a cui siamo abituati, di questa città che poi è semi invisibile, no? E non credo sia poi, cioè, un dato così scontato il fatto che noi non possiamo vedere dall'esterno cosa avviene là dentro. Perché? Perché una volta che comunque ci abbiamo compreso come cosa avviene là dentro e quindi messo in luce poi la totalità della funzione della società che è fuori, tra virgolette, diciamo che ci possiamo soltanto opporre a tutto questo sistema. Quindi c'è un potenziale anche rivoluzionario che insomma va messo in movimento, che secondo me viene messo in movimento soltanto a partire da queste immagini che cercheremo di liberare quel giorno. Nella stessa giornata infatti ci sarà anche una mostra all'interno di questo parco presso il Centro di Cultura Ecologica, una mostra per tutti quelli che vogliono partecipare, diciamo che di solito non hanno gli spazi per esprimersi. Tornando a questo, dunque, voi quindi vi volete fare appunto attraverso questo dibattito, no? su alcuni aspetti del carcere, però per capire tutto, no? Per esempio il problema dei bambini e delle bambine in carcere è un punto estremo, che però rappresenta un po' tutta la situazione del carcere. L'altro elemento estremo che volete affrontare, no, è quello del lo psichiatrico, parlando degli OPG. Gli OPG, sì, pure è un altro tema molto scottante. Attualmente rinchiudono soltanto 1500 persone, però è un po' l'essenza del carcere. Il carcere in fondo separa e annienta, cioè tiene separati quelle persone ritenute quelli che fanno i reati, cioè quelli non consoni al comportamento normale. Sì, infatti abbiamo invitato Maria Rosaria D'Oronzo, certo, che verrà sabato pomeriggio, anzi ricordiamo che l'appuntamento è alle 5 presso il parco di Aguzzano, l'entrata è a via Fermo Corni, l'autobus da Rebibbia è il 341, comunque vabbè, si arriva pure a piedi, chi conosce più o meno la torre, il centro sociale, insomma, sta lì, vicino. È vicinissimo. Sì, perché ci si impone, cioè, proprio anche di parlare degli OPG? Vabbè, un po' è dovuto al fatto, cioè, che dopo tanti anni di lotte, no, questi OPG sembra che si chiuderanno. Si chiuderanno, ma si moltiplicano, insomma, cioè, la storia è un po' questa. Nel 2013 vedremo almeno altre 20 strutture in tutta Italia che saranno date in pasto, cioè, a degli avvoltoi, perché verranno privatizzate e quindi gestite da aziende sanitarie, quindi insomma vedremo proprio come c'è proprio dietro poi la logica del profitto, cioè nessuno... Sì, la logica del profitto però è centrale la logica dell'esclusione. Sì, il profitto, sì, ogni cosa che avviene in questo mondo, cioè, ormai capitalista, ogni cosa diventa pure profitto. Però non è l'elemento centrale. No, cioè, l'elemento centrale resta quello dell'esclusione, della separazione, certo, e dell'isolamento, cioè tutto quello che produce già, certo, il carcere. Quindi andare fin là all'estremità e cogliere quello che avviene in questi posti ci permette poi di avere una comprensione e di avere un'idea che è totale rispetto, insomma, a quello che abbiamo già detto, al funzionamento delle carceri. Certo, il problema dell'OPG è che appunto è basato sul concetto della pericolosità sociale. Sì. Cioè una persona può andare a finire l'OPG per un reato di 2 mesi, tipo insulta una guardia, no? È successo quel fatto drammatico che si racconta come elemento paradigmatico, che un gruppo di ragazzi, così per fare una bravata, una sera sono andati a fare un furto, erano 4 persone, 4 ragazzi, vanno a fare sto furto, un furto così, vengono ovviamente presi perché non erano ladri di professione, fanno, e vabbè, vengono condannati. 3 di questi, tutti vengono condannati a 7-8 mesi di carcere, una stupidaggine, vabbè, inferiore a un anno. Uno di questi 4, nel momento dell'arresto, dà in escandescenza, può essere con un impulso abbastanza naturale, no? Insulta le guardie, comincia a fare. Questi lo prendono e lo portano da uno psichiatra, quindi lo portano in un centro di igiene mentale. E lì uno psichiatra dice che questo è stato in escandescenza, alla fine questo va a finire in un OPG. E conclusione della faccenda, ovviamente i suoi 3 amici fanno qualche mese di carcere e poi escono e stanno liberi da tempo. Questo si è venuto a scoprire che da 10 anni sta in carcere per una cosa che avrebbe potuto fare 2 per 1. Perché questo? Perché una volta che viene bollato come pericoloso socialmente, deve trovare un medico psichiatra che dica che questo non è più socialmente pericoloso, ed è una responsabilità che è difficile che si assuma, anche perché non c'è un dato oggettivo, non è come la febbre che tu, se ce l'hai, viene misurata da un termometro, che è uno strumento abbastanza obiettivo. Se c'è la febbre, se sta sopra 37,5 c'è la febbre, se sta sotto non c'è la febbre. Come si fa a stabilire se uno è pericoloso socialmente a sé e gli altri, se uno è in escandescenza? Come si fa? Cioè, andare a frugare dentro la mente delle persone è abbastanza è una visione grottesca di chi pensa di essere più o meno un semidio. E questo meccanismo permette di tenere in carcere queste 1500 persone. Alcune di queste usciranno, però poi appunto si riprodurranno, invece dei 6 attuali OPG, tanti micro OPG. Questo è un problema che rappresenta abbastanza bene però l'essenza del carcere e della separazione che il carcere rappresenta, perché in questa società, l'abbiamo visto ormai da un trend abbastanza lungo di diversi decenni, non è che diciamo, la penalità, il carcere funziona solo, tu fai una violazione, io ti metto dentro per la quantità di pena stabilita, 2 anni, poi esci. Se... No, ma il tentativo è proprio quello di andare a individuare le persone che non si sono adattate a questo vivere sempre più stretto, sempre più omologato, a cui i poteri ci costringono, perché appunto quando c'è la crisi bisogna stringere la cinta, quando c'è da consumare bisogna consumare in certe ore, in certi modi, e tutto questo, c'è tutto un meccanismo sempre più omologante, quindi vorrebbero che fossimo dei robot. Ora è difficile ridurre degli umani a dei robot, e quindi qui arriva la punizione, il concetto di punizione, punizione normale del carcere, punizione particolare della mente, cioè tu sei pericoloso socialmente. Questa categoria, tra l'altro, che ci è stata lasciata dal fascismo, chiaramente non c'era nei precedenti codici penali e non ci dovrebbe essere, insomma, però è stata introdotta perché è molto utile a qualunque regime, democratico o meno che sia, questi che si definiscono democratici, perché con la pericolosità sociale si permette di tenere una persona a prescindere dal reato che fa, cioè non ha importanza che tu fai una cosa piccola oppure una cosa grande, io a prescindere dal tuo comportamento individuo te come persona pericolosa socialmente, perché non sei adeguata al consesso sociale, alla società civile, quindi io ti espello e ti metto nei vari posti di espulsione. Questo è un fatto molto grave che se lo lasciamo fare è un così, una serie di meccanismi che preludono a una società di quelle raccontate nei film di fantascienza, insomma, no? Dove tipo il Grande Fratello, dove praticamente diventiamo tutti dei robot, e chi non è, viene fatto sparire, chi non si adegua a fare il robot. Beh, queste società stanno andando in questo senso. Vediamo anche tutto il meccanismo contro il conflitto sociale. Qualunque conflitto, per ragioni normali, viene subito aggredito come se fosse una anomalia, un qualcosa da sradicare. E quindi praticamente vogliono imporre un comportamento abbastanza, convenzionale, cioè omologato, cioè tutti debbano fare le stesse cose. La tendenza è molto pericolosa perché poi riguarda tutti e sempre più riguarda anche quelli che non stanno in carcere. Quindi quando si parla di carcere oggi, in questa tendenza, quando si parla di OPG, non si parla solo di quelle persone che attualmente stanno dentro, ma si parla di tutti noi che stiamo fuori. Quindi per questo è importante che le persone dicano: ma io perché mi devo occupare di carcere? Non ci sto, non c'ho manco un amico che sta dentro, probabilmente non ci andrò mai. Non è vero. Non è vero, il sistema carcerario opera su tutto il sistema sociale rendendolo sempre più stretto, cioè il carcere serve non solo a tenere dentro 60-70 mila persone, ma a stringere, a diminuire le libertà esterne, che di fatti sono sempre di meno. Cioè più il carcere diventa pregnante per questa società, quindi pieno di persone, i codici di comportamento sociale diventano sempre più rigidi e meno godiamo delle libertà. E quindi è estremamente importante questo così, l'analisi come fate voi nel cercare di capire tutte le essenze di separazione sociale, di emarginazione, come il carcere, come l'OPG, come l'IGE, i vari istituti che permettono appunto di separare le persone. Quindi è importante non solo per capire, per avere un rapporto di solidarietà con coloro che stanno dentro, ma anche per capire quali sono le carceri meno visibili che esistono nella società cosiddetta libera, perché ve ne sono e si stanno mettendo a punto. Le limitazioni di libertà sono talmente vaste oggi, se ne producono ogni giorno di più, che se non mettiamo un freno ci troveremo tutti carcerati. Bene, per finire, allora, se ci vuoi ricapitolare brevemente questo dibattito, Andrea, nuovo il codice, il punto, sì, eccetera. Dalla mattina alle 10 e durante tutta la giornata ci sarà, comunque c'è la mostra di disegni e fotografie, sì, sabato 9 giugno al Parco di Aguzzano, ricordiamo, l'entrata è a via Fermocorni, e questa mostra a partecipazione libera. Invece alle 17 puntuali, perché così dopo riusciamo anche a fare una bicchierata, c'è un aperitivo, e però saranno tanti gli interventi e avremo molto da dire, quindi insomma va bene. Allora, aspetta qui il microfono, dunque ti ringraziamo, l'appuntamento questo non funziona già più. L'appuntamento quindi è per sabato, dalla mattina, per chi volesse vedere anche la mostra fotografica, e poi pomeriggio alle 17 il dibattito che inizia su questi temi abbastanza interessanti. Che dire ancora? C'è un luogo dove andare a trovare, appunto, c'avete un sito, un qualcosa dove trovare documentazione? Non c'avete un sito, dove dovete farlo? che so, un posto dove trovare i volantini? No. Quel giorno dentro il parco. Va bene, ci sarà un po' di materia. D'accordo, ti ringraziamo e quindi ci si vede sabato. Bene, sono le 16 in punto, termina qui la conta di quest'oggi. Ricordiamo quindi l'appuntamento per chi volesse partecipare a questa iniziativa al Parco di Aguzzano in via Fermo Corni, diciamo vicino a Rebibbia, al Parco di Aguzzano, via Fermo Corni, autobus 341, comunque vicino alla metro di Rebibbia, la metro B, su appunto. E poi ne parleremo anche successivamente. E l'appuntamento per questa trasmissione è mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, sempre delle frequenze di Radio Onda Rossa. Buona giornata, buon ascolto a tutti e tutte, in particolare buona libertà per coloro che ne sono privati o private. Sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui. Sarò più saggio quando uscirò, non mi farò peccare. Sogni troppo cari per non rischiare, ma nella strada sai, impari presto dove andarteli a cercare. I sogni insegnano a sbagliare, e ai sogni c'è un limite, te lo dai giudice, il tempo che passa, il secondino è grassa. Quando uscirò di qui, sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile.